Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10, 8 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero. A quanto pare i milanesi non si sono riposati affatto oggi, a ora legale a parte, aspettavo la metropolitana. Aspetta, ci ha messo un po' di più del solito ad arrivare. Quando si sono aperte le porte c'erano 800 milioni di persone in tuta che erano pronte per correre per la Stramilano. Ho detto, sta succedendo qualcosa. Io non sono fra quelli, ovviamente, si vede anche dalla mia fisicità, non è particolarmente sportiva. Ma oggi l'argomento del riposo del guerriero non è ovviamente questo, ma è tutt'altro. Vi ricordo intanto i numeri. Facciamo così, gli sms al 349-238-6666 e li voglio agguerriti oggi, anzi agguerrite, e c'è un motivo perché lo dico. E poi il numero verde, perché alle 11.30 ci sarà il mistero in 24 minuti, per voi come sempre la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. dovete risolvere il mistero, la risposta può essere una notizia della settimana oppure un personaggio, qualcosa che ci appartiene purché famoso, noto, conosciuto. E più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà come al solito, e si parte da 1000 euro. Il numero verde, prenotatevi già da adesso se volete, 800 24 00 24. Oggi parleremo di universo femminile, o meglio, l'universo femminile raccontato dagli uomini. Potevamo cominciare con lui, ovviamente, dovevamo cominciare con Zucchero e donne. Parliamo di donne oggi, raccontate però così con l'occhio degli uomini. E quindi magari le donne che emergono non sono proprio quelle che sono, no? Sono quelle che ci immaginiamo o che vorremmo che fossero, o magari no, non lo so. Non sono da solo, ovviamente, non potrei. C'è Antonio Mancinelli, ciao Antonio, benvenuto. Benvenuti a tutti voi, ciao Stefano. Antonio Mancinelli, capo redattore di Marie Claire e autore di un libro che tra l'altro verrà presentato nei prossimi giorni. Il 4 aprile al Museo della Scienza e della Tecnica a Milano, quindi correte numerosi. È curioso perché hai scelto il museo, adesso vediamo. Allora, finalmente sì, libro. È in tuo onore. Ah, ringrazio. Ma non solo mio. Allora, finalmente libero è il titolo del libro. 45 e più donne raccontano come si sopravvive ai 45 e più anni. Esattamente. Perché anche le donne invecchiano. Anche le donne invecchiano e anche gli uomini invecchiano, e allora, siccome, come io dico proprio serenamente, tranquillamente, nell'introduzione al mio libro, ho incominciato a sentirmi un po' a disagio, visto che 45 passavano e sono passati già da un po' di tempo, mi sono reso conto che tutto sommato forse chi aveva più dimestichezza con il passare del tempo, chi tutto sommato aveva una maggiore facilità nel relazionarsi a un problema del genere come quello dell'invecchiare oggi in un paese come l'Italia, che come sappiamo ama molto le persone giovani o sembrerebbe amare molto le persone giovani, ogni riferimento a eventi di questi giorni non è assolutamente casuale, mi è sembrato giusto ascoltare, all'inizio erano 45 signore che però a un certo punto sono diventate 60 e cominciavi a divertirti perché mi ha preso la mano, loro dicono tutte le cose estremamente interessanti, alla fine sono 60 interviste a 60 signore di cui si sa soltanto, perché in fondo siamo cavalieri, Gallarini. Non hai fatto nomi e cognomi. Lo sai anche tu? Ci sono nomi e cognomi. Si sa solo che hanno compiuto 45 non anni. Non abbiamo la data di nascita. Non si sa da quando, ecco. Certo, può anche essere nel 3 a.C., ma non importa. E io sarò cavaliere comunque, non ti chiederò la tua, ovviamente, che è più di 40 sicuramente. È più di 45, evidentemente. Ah, più 45. Possiamo visto che appunto sbilanciarci. Comunque, come scrivo nella mia biografia, siamo tutti e due nati, io e te Gallarini, nella seconda metà del secolo scorso, e questo basta. Io sono il conduttore, quindi non devo essere coinvolto. Senti, di solito si dice che gli uomini invecchiando e migliorano e le donne invece no. meno. Questo... Tu forse hai ribaltato un po' questo pensiero con questo libro. Sì, tant'è vero che il secondo libro che vorrei fare dopo questo sarà sulla crisi dei cinquantenni, che secondo me se la vivono molto peggio delle donne. Di solito si dice questo, di solito però, ecco, poi andando poi sul campo, nel fatto poi questo libro è una vera indagine giornalistica, sono andato da queste 60 signore anche in maniera piuttosto insolente, così un po' impertinente, chiedendo anche cose molto personali. Fra l'altro sono 60 persone non famose o non soltanto, come dire, celebrities, ci sono scienziate, ci sono attrici, ci sono casalinghe, ci sono persone che comunque lavorano e ci sono giornaliste, ovviamente ci sono sportive. Devo dire, forse una delle interviste più belle, se posso fare un nome, quella con Sara Simeoni, non so se ve la ricordate. Come no? Che purtroppo, come dire, è stata un po' dimenticata dallo sport dopo che per 10 anni il suo record è rimasto inalterato. E mi sono reso conto poi di quello che noi chiamiamo oggi, no, il distacco fra quello che noi chiamiamo il paese reale da quello che poi è il paese propinato invece da un certo tipo di cultura televisiva. E per fortuna il paese reale, come sempre, molto meglio di quello ideale per un senso negativo, propugnato dalla televisione, nel senso che le donne che ho sentito hanno in qualche modo, sono scese a patti con il fatto che il tempo passi, che il corpo cambi, che le rughe aumentino. E se la sono risolta, diciamo. Se la sono risolta, ecco, è un libro assolutamente laico. C'è chi dice mi sono fatta l'operazione estetica, tra l'altro ci sono due chirurghe estetiche che ho intervistato, quindi non c'è nessun atteggiamento moralistico, nessun tipo di giudizio, però in qualche modo se la vivono con estrema serenità, anche nei casi in cui, ad esempio, l'età ha portato, non so, il fatto di aver chiuso un matrimonio, di aver tutto sommato perduto alcune occasioni. Però ecco, una frase molto carina, per esempio, viene detta nel libro, che le donne in generale, come dire, non piangono sul latte versato, e perché se succede si comprano delle mucche nuove, e quindi c'è questa cosa, no, di tutto sommato non guardarsi indietro ma guardare avanti, sempre guardare avanti. Continuiamo a parlare di questo, ovviamente. Adesso poi avevo in mente delle domande, chiaramente la tua introduzione mi ha spostato completamente il centro e va bene così. 10-17 minuti, aggiornamenti sul traffico, continuiamo a parlare poi con Antonio Mancinelli. Allora, donne raccontate dagli uomini, anzi da un uomo, perché tu solo sei ad aver scritto questo libro. Prefazione di Lella Costa, sì. Però, una donna. Ma Lella Costa è una grandissima amica e appunto le ho chiesto questo piacere di introdurre questo libro con una prefazione estremamente divertente, anche lei estremamente realista, e in cui lei dice delle cose assolutamente divertenti ed estremamente vere e autentiche, come per esempio il fatto che non bisogna, dando per esempio molto la colpa ai media, cioè a noi giornalisti, cioè sì, non bisogna dire che Sharon Stone sembra giovanissima, ma che Sharon Stone è rifatta, ma benissimo, e questo poi è il punto, no? Il discrimine, cioè rifarsi sì, ma rifarsi molto bene, se proprio una ha la voglia di... Ecco, forse poi anche questa tendenza sta cambiando. Tu continui a gettarmi sul piatto argomenti, sono veramente tantissimi, quindi dobbiamo fare un riposo del guerriero di 6 ore. Ma faremo un riposo del guerriero che durerà 24 hours a day. Va bene. Allora, perché finalmente libere? Allora, perché alla fine, tu sai che il titolo di un libro, a meno che tu non sia, non lo so, Thomas Mann, no, non c'è più, è morto, ma insomma, Franzen, si decide alla fine. E alla fine ci siamo resi conto, e uso il plurale perché c'è stato un editor molto bravo, anche lui maschio, che in qualche modo mi aiutava così a mettere un po' a posto queste interviste, perché poi sono divise in 4 grandi argomenti, 4 grandi sezioni. Questi divide il libro sono ovviamente corpo, cervello, cuore e anima. E ci siamo resi conto che quello che teneva insieme le dichiarazioni, le interviste di tutte queste signore che provenivano da campi diversi, che avevano esperienze diverse, che avevano avuto vite personali molto differenti, era il fatto che quella che possiamo chiamare la vecchiaia, quella che possiamo chiamare con un termine un pochino moderno l'adultità, ti rende in qualche modo più libero, più libera in questo caso, perché è un'età in cui non devi più rendere conto a nessuno. Se quello figli... che è fatto è fatto, da un certo quello punto che di fatto vista. È fatto, ma in senso positivo, certo. Per cui se hai raggiunto delle mete professionali, bene, se non le hai raggiunte te ne fai una ragione, se sono arrivati i figli, forse se hai 55-60 anni i figli si spera se ne siano andati, se non sono arrivati certo non arriveranno, e quindi si arriva in un momento in cui una donna, ma in generale direi una persona, riesce a gestire finalmente il proprio tempo in maniera per proprio autonoma. Ecco, quindi vale anche per gli uomini, finalmente liberi dopo i 45, o no? Sì, o secondo me gli uomini sono ancora oggi ancorati a alcuni ruoli. Pensiamo, non so, adesso non perché io ce l'abbia con la classe politica, pensiamo che comunque siamo, per parafrasare un mitico film che a me è piaciuto molto, siamo un paese per vecchi, quindi sicuramente gli uomini sono molto ancora è quello che è uno status anche professionale, e quindi con l'avanzare dell'età non lo vogliono mollare, o certo sono molto più legati a quello che è loro, appunto la loro definizione professionale, che dà loro anche un certo sostegno di tipo anche emotivo, anche spirituale. Mi sembra in generale che le donne questo tipo di sostegno se lo facciano da sole nel corso degli anni, ma anche perché, lo ripeto, il mondo femminile forse ha avuto anche più secoli per sviluppare una dialettica fra l'età che passava e il rapporto, ad esempio, con la seduzione, il rapporto con il fatto di piacere agli altri. E in generale le donne stanno imparando, o hanno imparato, a non vivere più. Tu parlavi prima di sguardo, a proposito dei miei occhiali, hanno imparato a non vivere più nello sguardo degli altri, ma a rivolgere lo sguardo verso se stesse. Questa è una cosa che forse gli uomini paradossalmente ancora non fanno. Perché gli uomini sempre guardano, quindi alla fine. Perché gli uomini guardano, ma vogliono essere guardati, e quindi c'è una strana inversione di ruoli in cui ci sono signori cinquantenni, serissimi, incravattati, che allo scadere del cinquantesimo anno iniziano a farsi la moto, a vestirsi col giubbotto di pelle, a farsi la fidanzatina. Tornano giovane. Indietro, in poche parole. Tornano indietro, ma secondo me proprio per farsi guardare non dalle donne, ma dai loro coetanei, per far vedere quanto sono fichi. Certo. Sono particolarmente in qualche modo prestanti. Migliori, no? Ancora una volta, sì, prestanti, giovani, migliori. Poi la mattina dopo hanno le mal di schiena spaventosi. Stanno allora, c'è un argomento che normalmente si dice che sia prettamente, non dico esclusivamente, sono molto vicino alle donne, sì. Che è l'oroscopo. Antonio Capitani, ciao, buongiorno. Buongiorno. Invece a quanto pare gli uomini, visto che tu fai l'oroscopo sulla Gazzetta dello Sport, non possono farne a meno ogni giorno. Ma guarda, ho dei riscontri, devo dire, del tutto inaspettati. Però lo fai anche su Vanity Fair. Prego? Però lo fai anche su Vanity Fair, sono Mancinelli. Sono Mancinelli, ciao. Ciao, buongiorno. Sono due, devo dire, target group sostanzialmente differenti, anche se poi il lessico che io uso è lo stesso per tutte e due i media. Sicuramente quando ho cominciato questa collaborazione con la Gazzetta dello Sport mai più avrei pensato che poi sarebbe andata avanti per così tanti anni, e devo dire che anche se probabilmente i lettori della Gazzetta non credono al pronostico astrologico, però lo leggono, si divertono, mi scrivono, devo dire, delle mail anche molto spiritose. E quindi sì, effettivamente l'oroscopo è trasversale. Esatto, ecco, però credo che neanche le donne poi ci credano, almeno non tanto a quello che leggono sul giornale, di quello stiamo parlando ovviamente in questo momento. Le donne ci si affidano anche a volte in maniera forse un po' pericolosa, perché comunque poi il libero arbitrio, tu mi insegni, deve essere il vero pilota. Assolutamente. Del destino. Posso dire una cosa? Sono Antonio Mancinelli, sono il tuo omonimo. Però una cosa che, come dire, noto nei tuoi oroscopi, che vengono letti ad alta voce alla nostra redazione, per cui c'è una specie di coro quando arriva Vanity Fair in redazione, c'è, come dire, un'attenzione molto particolare da parte di tua, Capitani, nell'aspetto, diciamocela tutta, insomma, sessuale, suino, per citare un aggettivo che a te è molto caro. Non credi che sia anche questo che interessi le donne? Beh, guarda, insomma, solitamente chi non esercita poi ne scrive, no? Di cose sessuali. Quindi... non credere di scappare però così. Però forse questa è un'altra cosa che distingue gli uomini dalle donne, quando forse le donne parlano meno da questo punto di vista, o no, Antonio? Sì. Mancinelli, no, devo stare attento adesso perché sennò no. Il 13 giugno ho visto... Guarda, insomma, le donne, come tutti gli esseri umani, hanno i loro appetiti sani da questo punto di vista, e ti assicuro che le lettere che io ricevo a Vanity, perché curo anche una rubrica di posta con i lettori e le lettrici di Vanity, ti assicuro che ci sono delle persone che mi scrivono, delle donne che mi scrivono e si lamentano perché a volte tutto questo florilegio di suinità che io predico loro poi magari non arriva, e allora si lamentano, lo vogliono, quindi hanno evidentemente rivolgono questa attenzione anche all'aspetto puramente carnale dell'espressione d'amore, che trovo tutto sommato legittimo. No, assolutamente. Sì. Chi siamo noi per poter appunto, giudicare, anzi. Appunto. Certo, c'è l'aspetto sentimentale, perché comunque l'amore una volta teneva banco negli argomenti che mi venivano proposti dai lettori di Vanity. Tante persone mi scrivevano: ma quando arriva il partner giusto, ma ho 40 anni, riuscirò ancora a farmi una famiglia, eccetera. Ultimamente devo dire che le problematiche di lavoro ed economiche hanno raggiunto a pari merito le tematiche amorose, quindi le donne e gli uomini naturalmente in questo momento preciso, storico della nostra Italia, mi chiedono soprattutto previsioni legate al lavoro. Assolutamente specchio dei tempi. Allora, Capitani, vi chiamerò per cognome a questo punto, così come a scuola, esatto, se no ci confondiamo. E io ti lascio un attimo lì, nel senso che poi vedremo anche il come sono le donne dei vari segni dello zodiaco, così un tratto veloce. Io volevo tornare un attimo a te, Mancinelli, il libro di Luiso, come avevi detto prima, sembra una gita scolastica. Esatto, però per forza tutte e due Antonio diventa un caos. Allora, corpo, cuore, cervello, anima, tu hai scelto un ordine casuale o c'è proprio un ordine di interesse da parte delle donne? Quindi prima il corpo, poi il cervello, e poi il cuore, poi il cervello e poi l'anima. C'era un ordine di tipo, come dire, partire dall'aspetto razionale e sentimentale insieme, quindi il corpo e il cuore, l'esteriore e il cuore, e poi passare, come dire, come se fosse quasi speculare, ha invece un aspetto più tra virgolette emotivo, però dov'è l'emozione? In quello che chiamiamo coscienza, in quello che chiamiamo animo. E allora appunto ho deciso di le ultime due sezioni, specialmente l'ultima, che è abbastanza malinconica, perché comunque parliamoci chiaramente, sia per uomini che per donne, quest'età dai 45-60, l'età in cui molto spesso si perdono i genitori o comunque c'è un contatto più vicino con quella che si chiama anche morte, e quindi mi sembrava giusto che l'anima fosse veramente l'ultimo degli argomenti da affrontare, però è stato affrontato anche quello con estrema leggerezza e con nessun tipo di nostalgia. Questo libro è un libro assolutamente antinostalgico. Allora, senza che sia finita la trasmissione, ti faccio già l'ultima domanda, mi è venuta in mente però adesso. Invecchiano I sogni aiutano a vivere meglio. Invecchiano più felicemente gli uomini o le donne? Hanno paura più di invecchiare gli uomini o le donne? Credo che adesso, nel 2011, mi sembra di dire, non lo dico perché ho scritto questo libro, la paura di invecchiare, la paura di non essere quindi più efficienti, di non essere più in qualche modo portatori di una sorta di essere sempre al massimo, siano sicuramente gli uomini. Non dategli corda subito, eh? Oggi siamo qua per lei ballare. Lei deve essere obiettivo, ci ricordiamo. Senti, Don Lurio, vai a ballare là in autostrada, che non c'è mica tempo da perdere qua. Signori e signori. Le signore? Signorano. Io dico l'om le l'om, la donna le la donna, giusto? Giusto! Un giorno Dio creò la terra e vide che era una cosa bella. Poi creò la natura e vide che era una cosa bella. Poi creò gli animali e vide che era una cosa bella. Poi creò l'uomo e vide che era una cosa bella. Poi creò la donna e disse: si truccherà. E allora, via. Diciamolo apertamente, signori. Diciamolo senza problemi. Giusto? No. Giusto? Giusto! Diciamolo pure apertamente, signori. A 29 anni la donna è vecchia. Ma non è vero. È vecchia, è da rottamare. Ma no. Bisognerebbe comprarla in leasing, così puoi rimandarla dentro. Quando finisce il leasing? Quando comincia il lifting? supposta di saggezza. La donna è come il gong, va battuta a intervalli regolari. Il riposo del guerriero. Per mi occupo anche di videogiochi, questo forse dice, esatto, che questo Peter Pan, la tua vera età anagrafica anteriore, esatto, che è quella. 11 anni e mezzo. Antonio Mancinelli, finalmente libere, 45 più donne raccontano come si sopravvive ai 45 e più anni. Vi ricordo anche il numero per gli SMS, 349-238-6666. Riccardo Romani, benvenuto, ciao, buona domenica. Buongiorno e buona domenica a tutti voi. Allora, Riccardo è corrispondente. Ciao, Riccardo. Di Sky TG24, però tu curi anche la posta del cuore di Marie Claire. Sì, nessuno è perfetto. Adesso devi spiegare perché hai detto così. Ma perché nessuno è perfetto? No, esatto, no, perché non ti senti perfetto nel rispondere alla posta del cuore di una rivista femminile. No, beh, perché è un po' un vezzo, nel senso che comunque il sogno virtuoso di tutti coloro che fanno questo lavoro è di scrivere parole consolanti, stimolanti, provocatorie a donne di ogni ceto, età e umore, diciamo così, emozionale, per farle sentire meglio. Ecco, insomma, quello che uno forse non riesce a fare nella vita tutti i giorni, perché insomma non ha tempo, non ha disposizione materiale. Allora avere delle letterine che ti arrivano fisse ogni settimana, ogni mese, insomma, una cosa abbastanza divertente, quindi un po' una debolezza, diciamo così, da uomo, parlando di 45 anni e maschi, insomma, che magari per forza o per non so perché, insomma, non ho avuto tanto tempo di dedicarsi a questo nella vita, insomma. Quindi se avessi cercato una spiegazione più filosofica sul fatto per cui io mi sia imbarcato in questa cosa, forse ti ho delusi, non lo so. Però, no, assolutamente, ecco, no, anzi Riccardo, il fatto è che io credo, poi non so, smentiscimi, che le donne siano più felici quando alla posta del cuore sia un uomo a rispondere, o mi sbaglio? Beh, direi che su questo c'è un discorso proprio di parità assoluta. Se qualora fosse un uomo a scrivere, ovviamente sarebbe molto più felice che fosse una donna a rispondergli. Sì, lo sono, perché in pratica le donne sanno già cosa vogliono, cosa vuole che si dica loro, e se un uomo a confortarle è come, insomma, aver guadagnato un punto con il voto di un avversario, insomma, perché comunque sono donne che ovviamente se si affidano a un posto del cuore hanno bisogno di conferme più di indicazioni, come quando uno va a fare i tarocchi, lo sa già quello che si... Certo, credono un po' di più nella risposta, però, questa è la chiave, la no? Usano come prova inconfutabile, forse vanno anche dai loro rispettivi padri, vedi, questo è un uomo, mi dà ragione. Se dice so. Così, certo. Esatto, Mancinelli... No, finisci Riccardo. No, però è sempre molto più stimolante, perché tanto è un gioco, questo è un gioco, solo il gioco... Se Antonio a darmi dei consigli o mi dire cosa è un conto, se invece una ragazza o viceversa, ovviamente è un altro, è tutto un gioco ovviamente che corre sul filo un po' dell'intrigo, un po' della seduzione, un po' del flirt, insomma, di tutte quelle cose, secondo me, di cui oggi, insomma, non c'è più tanto tempo, non c'è più tanta... E poi soprattutto leggono anche quelli che non hanno mandato la lettera, perché ognuno, sono tutte storie che magari possono essere, no, accomunate, quindi io li leggo tutte a posto del cuore, ovviamente, e non mi servono a niente la mia vita, però sono le leggo. Riccardo, ciao, sono Antonio Mancinelli. Due domande molto veloci. La prima è quanta banalità c'è nelle domande? Cioè, ricorrono sempre degli argomenti simili nelle lettere che ti mandano, e siccome poi, come dire, conosco bene la tua rubrica, visto che è per il giornale per cui lavoro, tu rispondi tantissimo usando citazioni di film, frasi di canzoni, quindi in qualche modo sembrerebbe che la cultura, comunque saperne di più, aiuti ad amare meglio. È così? Sì, guarda, sono due le cose. La prima è che non c'è banalità, anche se voglio dire sembra che stia facendo una difesa d'ufficio, non c'è banalità quando uno ha delle pene d'amore o delle cose da che vuole condividere con qualcun altro, che sia uno sconosciuto, che non c'è mai banalità, tutti noi l'abbiamo fatto, ne abbiamo bisogno, quindi magari ecco, uno deve sapere che quello è un sistema lieve che a volte ti può stupire, che a volte ti può anche così dare un'indicazione tuo malgrado. L'altra cosa invece è, io non so, ho sentito un po' i discorsi che avete fatto fino adesso, uomini e donne secondo me sono esattamente identici, cioè non c'è nessuna differenza, c'è una grande differenza nelle modalità, nel modo in cui ci si pone, in tutte le convenzioni sociali che da Adamo ed Eva in poi ci hanno fatto diventare quello che siamo. Quindi sono identici, quindi rispondendo alla tua domanda, credo, insomma, il fatto di usare dei mezzi come il cinema, come la letteratura, è trovare un terreno comune per farli comunicare al di fuori di queste convenzioni. Dove incontrarsi anche, certo. Esatto, sì. Perché l'uomo deve fare la prima mossa, tutte queste cose, la donna deve... No, cioè siamo andati al cinema, abbiamo visto un film e quella frase, e quella cosa, e quella linea di quella frase di quel libro ci ha fatto secchi entrambi. Ci ha fatto secchi. E quindi, cioè, usando quella, un po' viene meno quella convenzione uomo-donna, siamo esseri umani in questo stesso gioco, in questa stessa partita, e la mia opinione è che uomini e donne siano uguali. Le donne vanno a caccia come gli uomini vanno a caccia come le donne, solo che... Riccardo, proprio su questo io ti faccio ascoltare un momento di un film che ti amo perché ti lascio troppo, e, con Alessandro Siani, e c'è questa frase che ci ha colpiti. Voi sentite quello che dicono, no? Loro vogliono un uomo che sia protettivo ma al momento giusto che le lascia andare, un uomo che gli dia delle sicurezze ma al momento giusto delle incertezze, un uomo che sia geloso ma non possessivo, un uomo che quando vuol dire sì deve dire no, quando invece vuol dire no deve dire sì. E poi se ne escono pure con la frase: ti ho chiesto solamente di essere un uomo. Sì, un uomo, ma a te te ne servono 10. Ecco, allora, questa cosa è ancora vera, che non ci, cioè, noi uomini non sappiamo mai come comportarci, sbagliamo sempre. Lo chiedi a me? Sì, lo chiedo a te, Riccardo. Però io ti rovescio la domanda, sì. È la stessa cosa per le donne. Allora senti, è un buon modo anche per non rispondere, perché mi piacerebbe invece approfondire, ma io, siccome tu sei anche corrispondente dall'Afghanistan, sei tornato da poco. Allora volevo capire come sono le donne là, nel senso, in questo senso, cosa ti ha particolarmente colpito dell'essere donna là, in un paese dove prima le donne avevano certe libertà che oggi assolutamente non hanno più, e cosa hai trovato che ti ha colpito e che vorresti trasportare qui in Italia? Vorresti dire alle donne italiane, vorresti dire guardate che esiste quest'altra realtà e sarebbe bene che voi possiate farne tesoro, se c'è qualcosa. Ovviamente sì. No, purtroppo è una risposta ampissima, che, ecco, troppo. No, ampissima. Cercherò di usare degli episodi. Sì, certo. Il primo è questo. Ci sono 1200 Afghanistan, purtroppo, perché se no la situazione non sarebbe così complessa. Herat, Kabul, sono città dove la donna ha una condizione molto molto occidentalizzata, quindi sono donne emancipate per quello che noi intendiamo emancipazione, ovviamente, donne che vedi uscire, donne che non usano il velo, insomma tutto questo è molto incoraggiante dal nostro punto di vista. Poi esci da queste realtà, che sono realtà minime, e ti trovi, come sono trovato io, in una comunità di recupero per donne abusate, per donne pagate dalla comunità europea, pagate dalla coalizione, e trovi un grosso generale, insomma, un personaggio italiano che lavora lì da tanto tempo, un soldato che si occupa di donne per recuperarle, che dice: in Afghanistan, fuori dalla grande città, dell'emancipazione delle donne non interessa a nessuno, per primo le donne. Perché? Perché ci sarà un motivo se in Afghanistan, e lo dico assolutamente senza voler essere polemico né ovviamente provocatorio, sono ancora al 1370 nel loro calendario, perché ci sono dei passi, delle situazioni che richiedono tempo, che richiedono un tipo di lavoro. Ecco. Allora, in questo momento l'emancipazione della donna in Afghanistan, la gran parte del paese, non è una priorità per loro, purtroppo. Quindi, capisci, il discorso è molto complesso, certo. Si passa da spesso la donna molto avanti, che ha studiato in Inghilterra, molto che ha studiato negli Stati Uniti, che è tornata perché cos'è, la realtà è diversa, la realtà è veramente preoccupante, hanno altre priorità in questo momento. È dura e molto triste da dire, ma siamo noi che vorremmo, ma lì le cose sono un po' diversamente. Grazie, grazie Riccardo Romani, e grazie, niente, ti leggeremo sulla posta di Marie Kerr a questo punto. Ciao Riccardo. Buona giornata. Grazie. Prima di tornare a te, Mancinelli, Capitani, ecco l'altro Antonio, scusami. Presente. Eccoci lì. Allora, vediamo velocemente Ariete, Toro e Gemelli, come sono queste tre donne? Ma la donna dell'Ariete non si discosta molto dalla tipologia caratteriale anche del nativo dell'Ariete, è una donna grintosa, una donna che forse vuole tutto e subito, spesso anche ci riesce ad ottenere tutto e subito, e forse è la più maschile, la più combattiva delle donne dello zodiaco. Ti posso citare Mina, ti posso citare Patti Pravo, Simona Ventura, Céline Dion, sono tutte nate sotto questo segno, generose, leali, a volte forse con la stessa delicatezza del guidatore di ruspe, però insomma sono determinate, ecco, determinate, diciamo così. Sì. La donna del Toro è la chioccia, è la nutrice, è la balia, è forse meno avida del suo compagno maschile del segno, è forse più generosa e più oblativa, è un po' la goccia che scava la roccia, tu sai perfettamente che le donne del Toro sono a volte iperprotettive e hanno un po', come dire, il pallino anche della riproduzione. Ti posso citare Letizia Casta, che è una Toro, ma ci sono altre, non so, Michelle Pfeiffer, Renée Zellweger, Penelope Cruz, che è appena diventata mamma. Quindi sono rassicuranti le donne del Toro. Le donne dei Gemelli sono le eterne adolescenti, le eterne lolite, però non ci si lasci ingannare da questo luogo comune, perché ci sono tanti nativi dei Gemelli, e ci infiliamo dentro anche i nativi maschi, che hanno a volte un rapporto un po', come dire, anche tormentato con la quotidianità, con la realtà. Ti cito Jean-Paul Sartre, che ha scritto non per niente La nausea, però diciamo che l'aspetto sicuramente pierinesco, l'aspetto un po' giamburrascoso della donna Gemelli, che spesso è un umorista suo malgrado, e viene fuori, è la compagna ideale anche per diciamo serate amene, per occasioni di divertimento nelle quali non debba per forza di cose rientrarci la seduzione, ecco. Ecco, c'è un tipo di donna, Mancinelli, che tra quelle che ha intervistato, le 60 che ha intervistato, sì, che ha lasciato ormai la seduzione proprio nel cassetto? No, nessuna, nel senso che, allora, sono tutte, essendo tutte molto intelligenti, sanno benissimo che la seduzione, come diceva Jean Baudrillard, che è stato un grandissimo sociologo, un grande studioso della società, aiuta a vivere sostanzialmente, poi si vive seducendo gli altri. Il problema cos'è? È spostare le modalità in cui tu, certo, seduci, e quindi con cosa si usa, se per, fino a 20-25 anni usi la coscia oppure la scollatura o diciamo più elegantemente il linguaggio del corpo, nel caso in cui, come dire, si vada più avanti negli, sì, anni, cambia la modalità in cui si seduce. La prima? E quindi ti sorprenderà moltissimo, sì, con le parole, quindi tu sei perfetto, guarda, lavorando molto, come dire, in radio. Gli aggiornamenti sul traffico, eccoli lì, sono pronti, guarda. No. Sì, sì. Il riposo del guerriero. Uomini che parlano di donne, di questo si occupa Il riposo del guerriero oggi. Vi ricordo i numeri per che più tardi poi giochiamo, le 11.30 come sempre con Il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, 800 24 00 24. Il numero per gli sms è 349-238-6666. Mi stavi dicendo, Antonio Mancinelli? No, ti stavo dicendo che appunto nessuna di loro rinuncia alla seduzione, ma è una seduzione intelligente, quindi è compiuta paradossalmente un'epoca così tecnologica come la nostra, attraverso i racconti, attraverso le parole, attraverso anche la capacità di ascolto, perché sarebbe assurdo, e questo lo dicono tutte, a cominciare da Ella Costa, che ha scritto la prefazione, giocare sullo stesso terreno, nello stesso campionato delle ventenni. Quindi sfidare le ventenni nella loro freschezza anche fisica sarebbe assolutamente inconcepibile e forse non darebbe frutti, mentre invece per esempio raccontare delle proprie esperienze o semplicemente ascoltare le esperienze altrui può anche essere un mezzo per creare dei link che, come direbbe Capitani, possono anche essere sudombelicali. Senti, delle tue 60 donne, sì, intervistate, c'è qualcuna che è proprio felice di invecchiare invece? Sì, qualcuna lo è, non so quanto crederci. In generale, devo dire, tutte sono molto oneste, dicono che invecchiare non è proprio questa esperienza così meravigliosa, ma del resto, come l'ultima frase del libro, è pensata all'alternativa, quindi non c'è. Andarsene esatto, via giovani, per cui non c'è sulla terra, è quello che manca. E quindi la felicità mi sembra veramente un'espressione eccessiva, Gallerini, ma ci si scende a patti e, come dire, ci si vive, ci si convive felicemente, soprattutto nei casi in cui, ad esempio, si abbia un compagno da molti anni e quindi è molto, ecco, sono molto felici di invecchiare insieme, questo sì, perché in qualche modo il compagno o il partner, il marito, il fidanzato funziona anche un po' da specchio. E la cosa che poi si evidenzia è che, contrariamente a quanto si pensa, agli uomini il fatto che la propria fidanzata, la propria moglie, la propria partner abbia un filo di cellulite in più, perché poi le donne arrivano anche a un'età in cui, con la menopausa, incontrano anche dei cambiamenti fisici, somatici, ormonali, quindi c'è tutto un discorso anche di cambiamento proprio della silhouette, possiamo dire. Ecco, la cosa consolante è che agli uomini tutto sommato non interessa poi moltissimo che la propria compagna abbia un chilo in più, un po' di cellulite in più, mentre invece sono tutte d'accordo, e questo è un altro dato molto interessante, nel dire che lo sguardo più efferato, più crudele e più acido sulle donne è da parte delle donne stesse. Questo poi lo dicono proprio le donne di solito. Sì, sì, sì. Se qui ci si guarda molto tra di loro, tutto sommato gli uomini, è ovvio che tra la ventenne brasiliana e la moglie sessantenne, Brianzola, forse guardano più la ventenne brasiliana, ma in generale, se poi stanno insieme a una donna da tanti anni, non stanno più di tanto a guardare, se è una ruga in più o meno. Allora, facciamo il gioco delle coppie. Su. Nel senso che succede nel pensiero comune che l'uomo dopo i 45 si cerca la ragazza più giovane, no? Si innamora, sì, perché non vuole invecchiare, bla bla bla, lo sappiamo. La donna si cerca l'uomo più giovane o invece no? Non è necessario, non scatta questo meccanismo, perché oggi sono un po' cambiati anche i tempi. Beh, sì, pensate, voglio dire, no, a Demi Moore con assolutamente Ashton, ci sono hanno tipo, insomma, pensate alla stessa Madonna che cambia fidanzatini come se fossero dei Kleenex, per cui tutto sommato c'è, secondo me, anche questo aspetto, il famoso boy toy, il ragazzino giocattolo, per cui alcune signore si scelgono, però nelle tue 60 intervistate, nel senso che quelli sono icone che possono, sì, anche permetterselo per varie ragioni, irraggiungibili e quindi molto lontane sicuramente da quello che è, come dire, la quotidianità, la vita quotidiana, sì, di ognuno di noi. Però sicuramente, ecco, mi sembra che non ci siano grandi problemi nell'affrontare una relazione con una persona più giovane. Se è molto più giovane, se è un maschio molto più giovane, sì. Nel senso che proprio mancano gli argomenti non solo di conversazione. E invece per gli uomini a volte no. Comune. Per gli uomini a volte no, ma quindi ribadisco, siamo più scemi, nel senso che abbiamo meno bisogno. Ma no, del... più scemi no, un po' più boiler on off, cioè un po' più, come dire, schematici. E quindi e poi io ripeto questa mia sensazione, che quando gli uomini si fanno la fidanzata giovane non lo fanno per dimostrare così alle altre donne che sono, quanto per dimostrare agli altri uomini e soprattutto a se stessi. E quindi il Viagra va molto bene. Per un uomo, qual è l'argomento più difficile in assoluto da affrontare con una donna? Credo che l'argomento più difficile siano, e ti sorprenderò anche stavolta, Gallerini, perché vedo i tuoi occhietti furbi dove vuoi arrivare, sia proprio parlare di sentimenti e sia il poter dire mi sento solo. Questo è veramente un grande tabù. Più che il discorso delle possibili defianze sessuali, più che il discorso di appunto di un eros che anche nei maschietti va un po' scemando nel corso degli anni, c'è comunque un'andropausa inutile che lo neghiamo, anche se meno accentuata rispetto alla menopausa. Però il vero tabù di oggi riguarda sentimenti, emozioni e anche le paure. La paura della morte, per esempio, è molto presente nella nostra società, ma viene molto rimossa, quindi mi dispiace non averti dato una risposta, come dire, piccante. Ma io non mi aspettavo nessuna risposta. Guardavo dal tuo sguardo, e meno male che in radio non si vedono le facce, che Gallerini si aspettava una risposta molto pepata e non è arrivata. Antonio Capitani. Sì. Eccoci qua. No, c'è un messaggio, dice: la donna dei pesci, ti prego Antonio, ma è l'ultima, perché dovrai aspettare, mi dispiace. Cancro leone vergine. Guarda, il cancro è la donna cancro, la femminilità fatta persona, è una icona felliniana, questa nuvola di panna montata, di purè con il latte, il burro e la noce moscata. Però nonostante sia un po' la campionessa imbattibile di sensibilità, anche di creatività, la più accanita sognatrice ad occhi aperti, un po' ex aequo con la donna pesci, diciamo che la donna cancro è dotata molto più dell'uomo cancro di attributi di granito che nella vita poi la fanno arrivare molto in alto. C'è una differenza, devo dire, molto marcata fra le donne cancro e fra gli uomini cancro. La donna cancro è proprio una generalessa, è una gendarmessa, è una carabiniera che comanda un po' tutti a bacchetta. L'uomo cancro forse si fa un pochino più comandare, alla faccia di tutti i luoghi comuni che vorrebbero la donna cancro, la regina della polenta con le salsicce, che sta lì, che gira sempre la polenta, che sta ai fornelli e che prepara da mangiare un po' per tutti. La donna cancro invece è proprio la manager un po' per eccellenza. La donna del leone, beh, insomma, si sente la numero uno, spesso è la numero uno, al solo guardarla spesso ci si abbronza perché il suo fascino risplende, è solare, governata dal sole, è un po' Dea Visnu, nel senso che si mette piena di gioielli anche quando va a fare la spesa alle 7 della mattina. Quindi lei deve essere sempre una spanna sopra gli altri, un po' ingenuotta per certi versi, sicuramente solare, calorosa, generosa, ma anche facilmente buggerabile, per usare un termine della mia Toscana, e perché insomma ogni tanto cade nell'ingenuità, basta farle quattro complimenti che forse abbassa subito le armi e si rende preda anche come dire, delle malefatte di certi seduttori senza scrupoli che poi le parlano d'amore, in realtà poi non è proprio l'amore che vogliono da questa donna. La donna del leone, ripeto, sembra tanto grintosa, combattiva e guerriera, ma poi in realtà è un po' una micettina, sempre alla ricerca di coccole, di effusioni, che a volte, diciamo così, paga a caro prezzo, ecco. Mentre la donna della Vergine è molto più brillante dell'uomo della Vergine. So, Stefano, di dirti una cosa che non ti piacerà, perché tu sei un uomo vergine, però diciamo che la realtà spesso sfata i miti, anche quelli astrologici, perché anche la donna della Vergine, la facile manualistica astrologica, la descrive come la regina del disinfettante, la profetessa dell'appretto. Che tristezza. La testimonia dello sgrassatore universale. Non sono cose vere, perché è una gran signora la donna della Vergine, ha un senso dell'ironia molto brillante, che non è secondo a quello di nessun altro. Spesso si dice che la donna dei gemelli sia la più ironica in assoluto. È vero, è molto ironica, ma la Vergine la è di più, a mio parere. È una donna affidabile, è una donna intelligentissima, è una donna, una brava esecutrice. A volte diciamo che si rifugia in quel gregariato che per lei è rassicurante, ma che purtroppo non rende onore ai suoi molteplici talenti, che, ripeto, non sono secondi a quelli di nessuno. Io ti posso citare delle donne della Vergine che sono veramente straordinarie, da Sofia Loren a Cameron Diaz a Rachel Welch, la stessa Canaris e la stessa Belen, che sono i personaggi, o quantomeno lo sono stati i personaggi del momento di recente. C'è la Cristiana Capotondi, insomma ce ne sono tante, Gloria Estefan, sono donne che comunque nella vita hanno raggiunto posizioni, devo dire, ragguardevoli. Quindi, care Vergini, pur non diventando velleitarie, cercate di uscire da queste posizioni subalterne nelle quali spesso vi arroccate proprio per un senso di autoprotezione, perché voi potete arrivare molto più in alto di tante altre spaccone, vostre compagne di zodiaco, che in realtà hanno molti meno talenti di voi, forse diciamo che conquistano certe posizioni in altro modo, certo. Sì, con modi forse meno. Ecco, e liberatevi dagli appretti e dai disinfettanti. I prossimi segni a tra poco. Grazie Antonio Capitani. Intanto, finalmente libere, ancora parleremo dopo il GR. Il riposo del guerriero. Le 11:06 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, riposo del guerriero. Oggi il gioco è uomini che parlano di donne. La scusa è un libro appena uscito, scritto da Antonio Mancinelli, caporedattore di Marie Claire, che è qui con me. Antonio, ancora buona domenica. Buona domenica a voi. Il titolo del libro: finalmente libere, 45 e più donne raccontano come si sopravvive ai 45 e più anni. Sperling, l'editore. Allora, è arrivato finalmente il messaggio che aspettavo. Grazie Sara, però prima anonima, ne leggo un altro, che è Vicky, che dice: ho scoperto i boy Joy, sarebbero i toy boy, insomma i ragazzi più giovani, dopo i 50 anni e mi diverto davvero, dimenticavo, sono felicemente sposata. E che siamo noi per biasimarla? Brava Vicky. Il marito sarà felicissimo. Ma il marito non lo saprà. Non lo saprà, sì, certo. Chi lo sa, non si certo, sa. Ovviamente. Ogni coppia ha un suo equilibrio, come nel caso. Questo è di... vero, assolutamente, non entriamo in questo, non, esatto. non bisogna neanche, e non è compito nostro. Allora leggo il messaggio che aspettavo, finalmente è arrivato. Te lo sei mandato? No, sola. Assolutamente no, no. Sto ascoltando un universo delle donne viste dagli uomini. Sorrido. Che noia, quante banalità, luoghi comuni. Ma non sento nulla che dimostri conoscenza delle persone donna. Poi ci fa comunque complimenti, nel senso che programma simpatico, bello, però lei dice avrei voluto sentire qualcosa di nuovo. Invece gli uomini alla fine pensano sempre le stesse cose. Ma tu hai intervistato 60 donne però nel tuo libro. Io ho intervistato 60 donne. Quindi forse, la banalità, da dove arriva la banalità? Ma la banalità è, come diceva prima Riccardo, probabilmente ci sono degli argomenti così importanti e talmente fondanti, se sì, si può usare questo termine, che probabilmente, come dire, li definiamo banali nella misura in cui sono così caratteristici di ogni generazione, sono talmente al di là di ogni età, di ogni discorso legato anche a questioni geografiche, sociali o di qualsiasi tipo, che li affrontiamo come banalità. In realtà a me non sembra che o si dicono sempre banalità oppure non si dicono mai, perché come diceva prima anche Riccardo, poi giustamente insomma i cardini della propria vita sono quelli, sempre quelli, ecco. Esatto. Allora proviamoci con un altro ospite che saluto e che ringrazio. Ciao, grazie Vladimir Luxuria. Salve. Allora sentiamo che cosa succede da una donna che è stata uomo. E quindi vediamo se in effetti l'idea della donna vista in un modo, secondo me, nuovo, un modo davvero, oso dire, trasversale, se me lo concedi, Vladimir. Sì, per esempio devo dire che mi fa sempre effetto. Sì. Quando sento storie di donne che hanno un rapporto conflittuale con il proprio corpo, cioè quelle donne che non si vedono mai troppo belle, quelle donne che non si vedono mai troppo magre o troppo... Ecco, per me che invece l'ideale, diciamo così, il punto di... la meta, il traguardo era la femminilità, il corpo femminile, sì, pensare che invece ci siano delle donne che hanno... sono già nate in un corpo femminile senza dover fare tutte ste trasile, l'idea che insomma si facciano così tante paranoie mi spinge sempre a cercare di infondere coraggio e di cercare, io che ho dovuto appunto conquistare la mia femminilità, cercare di mettere coraggio loro e dire loro che essere donna è bello. Comunque sì, certo. Una cosa che mi ha fatto molto riflettere. Poi ho sentito il messaggio di prima, era molto divertente perché quel messaggio insomma sulle donne coi toy boy, perché sì, qui si potrebbe aprire anche il capitolo il corpo degli uomini, perché anche l'8 marzo che è il giorno della donna, insomma vedere tutte queste donne infoiate che stanno lì a urlare spogliati, faccelo vedere, faccelo toccargli, con questi fa un po' paura, che si spogliano, veramente fa un po' paura, quindi insomma però insomma la parità dei sessi poi alla fine passa anche attraverso questo. Senti Vladimir, io volevo farti una domanda che non vuole essere assolutamente politica, ma soltanto una riflessione. Si è manifestato per la dignità delle donne e forse in realtà la manifestazione era rivolta a qualcos'altro, perché la mia domanda è: ma dignità in che senso? Cioè dov'è che le donne non hanno dignità in questo momento, dove vediamo donne che vanno con gli uomini più giovani tranquillamente, e io credo che anche, non voglio dire la metà delle donne che hanno sfilato quel giorno, forse meno della metà, però immagino che molti compagni di quelle donne siano andati a prostitute almeno una volta nella loro vita, e anche perché un certo tipo di uomini è anche stato educato ad andare con una prostituta una volta nella vita per varie ragioni. E quindi volevo capire quale dignità sono andate a rivendicare e se ne avevano bisogno. Intanto bisogna ricordare che la prostituzione è un fenomeno in continua evoluzione. Oggi esiste anche una prostituzione di uomini rivolto alle donne. Esiste anche un turismo sessuale femminile, donne che soprattutto dal nord Italia, anche dal nord Europa, dagli Stati Uniti d'America vanno in posti come Cuba, Giamaica e effettivamente noleggiano degli escort, tutto fare, e ci siamo capiti. Quindi, e così come ci sono anche casi oggi di donne anche che magari sono manager e che insomma ci sono anche uomini dipendenti che hanno anche una specie di mobbing sessuale, cioè anche di proposte. Quindi, però questo ovviamente riguarda una parte, diciamo, ancora molto marginale di quello che riguarda l'universo femminile. Per me il concetto di autodeterminazione, di indipendenza della serie del mio corpo, faccio quello che voglio io, l'utero è mio e me lo gestisco io, passa inevitabilmente anche attraverso la prostituzione. Ovviamente io sto parlando di prostituzione libera, cioè di donne che scelgono consapevolmente. Ovviamente, di questo stiamo parlando. Non sto parlando ovviamente delle schiave. No, quello è un altro minorile, discorso. Per carità. Però quindi se c'è una donna che dice io del corpo mio, dell'utero mio, lo gestisco io, faccio quello che voglio io, non possiamo stare lì a puntare il dito, spesso anche in maniera un po' bigotta o moralista, o per strumentalizzarla a livello politico dicendo chi è prostituta è una donna che vale meno di un'altra, perché questo comunque è un giudizio, in questo momento un giudizio... Sei stata molto molto chiara, devo dire. Ecco. Grazie. C'era Antonio Mancinelli, voleva farti una domanda. Sì, buongiorno. Buongiorno. Onorevole, perché so che si chiama onorevole anche dopo che si è finito il mandato in politica. Sì, è come una cicatrice, resta a vita. Esatto. No, la cosa che mi premeva sapere, o mi divertiva sapere, è rispetto, suppongo, a tutte le sofferenze, anche le discriminazioni che ha dovuto così sopportare e che ho reagito con estremo piglio, devo dire, nel corso degli anni. Qual è stato il periodo peggiore? Quello, come dire, in cui c'era Vladimir Luxuria che faceva l'attrice, che andava in teatro, che faceva gli spettacoli, o il periodo politico? O il periodo in cui c'era proprio il suo impegno politico in Parlamento? Ma no, il mio periodo più difficile è stato un periodo, diciamo, legato più che altro all'adolescenza, perché poi dopo, per quello che ha riguardato la mia carriera artistica e anche quella politica, la mia corazza era già bella che... pronta, ero già armata della mia corazza, quindi le frecce avvelenate che mi scagliavano diventavano stuzzicadenti sulla mia corazza. Quello più difficile è stato il periodo in cui sentivo di non avere futuro, anzi il futuro lo vedevo più come una minaccia che come una risorsa, quindi quando pensavo che per quello che ero non avrei mai trovato un ruolo sociale, non avrei mai trovato un mio spazio all'interno della società, e quindi quello che io chiamavo un suicidio prolungato, cioè semplicemente non vedermi nel futuro. Ecco. Ecco, a proposito di futuro, come vede i suoi 45 anni? Visto che non li ha, ovviamente. Ma guarda, io dico sempre che ho avuto un rapporto conflittuale con l'anagrafe, quindi non solo per quello che riguarda il genere, adesso anche per quello che riguarda l'età. Voglio rivendicare il diritto non solo di sentirmi per sempre donna, ma anche di sentirmi per sempre giovane. Oh. Quindi dopo i 45 anni, guarda, finché ti svegli la mattina pensando che hai voglia di fare qualcosa, sei sempre giovane, quindi sto benissimo, sono una quarantinager favolosa. Quindi anche tu sei finalmente libera, come ha scritto Mancinelli nel suo libro, ti senti finalmente libera? Sì, aggiungerei, citando una pubblicità, libera e bella. Ecco. Perfetto, va bene. Grazie. E non solo nei capelli. Grazie Vladimir Luxuria, buona domenica, grazie ancora. Salve, grazie a voi. Salve. Allora abbiamo ancora 6 segni da discutere, abbiamo anche da capire come il guerriglia marketing si muove nel mondo femminile e quindi in rete con il nostro Fables, poi abbiamo anche dagli De Polini tante cose dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Abbiamo un... stanno arrivando tantissimi messaggi adesso. Ho lasciato mia moglie, un uomo, ho lasciato mia moglie, mia coetanea di 44 anni per una donna di 51. Sono l'eccezione che conferma la regola, se lo domanda. Non batterei la 51enne con una di 20, assolutamente. Marco sta bene così. Siamo felici per lui. Assolutamente. E forse dovrebbe essere felice di questa Daniela, che dice ho 57 anni e dopo i 50 mi è venuta la depressione, con cui lotto e spesso sono sopraffatta. Di questo ci dispiace. Però Tiziana Ferrario, se non mi sbaglio, che è una delle ospiti che tu hai avuto nel tuo libro, che è una grande amica. Lei dice che quello che l'ha, il compleanno che più l'ha, tra virgolette, disturbata o spaventata, è il 50esimo, è stato, non tanto il 45esimo. Allora è strano, perché i compleanni, che in generale, parlo per linea generale, hanno maggiormente, come dire, segnato le vite delle signore intervistate, sono stati due: i 30, perché esci dagli enti, e i 50. Io volevo proprio andare a indagare, andare un pochino a frugare in quella zona zona grigia che tra i 45 e 50 in cui sei ancora una tra virgolette ragazza e stai per diventare una signora, e quindi come c'è una frase bellissima del tuo libro, tu dici il momento in cui vi chiamano ragazze ma sapete di non esserlo, più, esatto, e quindi c'è proprio questa zona grigia, tant'è vero che poi paradossalmente a 60 anni tutte le signore che hanno 60 anni, che io so che hanno 60 anni, non lo dico, sono tutte estremamente più serene, più pacificate con se stesse. Antonio Capitani, guarda, stanno arrivando un sacco di complimenti, dicono che dovresti esserci più spesso anche in televisione eccetera, adesso a vedremo rischio e pericolo, adesso vedremo di fare qualcosa in questo senso. Allora Antonio, ti chiedo un attimo di pazienza, perché volevo sentire un attimo ancora Fables. Ciao Fables, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno. Allora, il nostro esperto di guerriglia marketing, per capire la donna e com'è, diciamo, utilizzata in questo senso, uso proprio questo termine, in rete, e capire se è stata, come è usata oggi, nello stesso solito modo, punto di domanda, quello che tutti si aspettano. Oppure assolutamente no, nel guerriglia marketing come al solito nulla è scontato e nulla è convenzionale, quindi anche l'utilizzo della donna per motivi pubblicitari è sicuramente differente rispetto alla pubblicità tradizionale. Ricordo un paio di casi, tra cui uno sicuramente ricorderete anche voi, che è quello dello scorso mondiale in Sudafrica, quando in occasione della partita di sorte, scusami, io ricordo, perdonami Fabio, io ricordo solo le vuvuzela se waka waka, il resto io non mi ricordo nulla, per cui fai bene a ricordarlo tu, vai avanti, perdonami. Figurati, durante la partita di esordio della nazionale olandese contro la Danimarca, sì, 36 ragazze sono andati sugli spalti vestite di arancione per in realtà pubblicizzare poi una nota marca di birra. Le ragazze sono state immediatamente allontanate dallo stadio perché comunque si pubblicizzavano una birra concorrente al brand, diciamo, allo sponsor, poi, certo, esatto, allo sponsor dello stadio, che era la Budweiser, era un'altra birra concorrente appunto a questa pubblicizzata. Le 36 ragazze tra l'altro non se la sono passate neanche bene, perché insomma si racconta, io ho letto anche qualche articolo in giro che dice che la FIFA le abbia trattenute per alcune ore, intimandole anche che le avrebbero arrestate, perché comunque se si trattava di pubblicità illegale, che in gergo tecnico viene chiamato ambush marketing, vale a dire marketing da imboscata. Tu con il tuo brand vai ad inserirti in maniera tra virgolette illegale all'interno di un evento già sponsorizzato da un altro brand. Certo. Riesci a farti ovviamente molta più visibilità, perché riesci a sfruttare la visibilità mediatica dell'evento in cui ti inserisci, facendolo comunque sia in maniera gratuita. Queste ragazze avranno pagato normalmente il biglietto e hanno occupato il loro posto sugli spalti. Questo perché è illegale, perché alcuni giorni, tra l'altro prima dell'inizio della partita, era tra l'altro uscito lo spot televisivo dove tra le protagoniste c'erano appunto le stesse ragazze che poi avremmo visto allo stadio. Quindi tutto molto ben pensato. Vabbè, tutto molto ben pensato. Poi, l'altro caso? Un'altra attività divertente invece si svolge in Israele. Sai che tra gli stereotipi c'è quello secondo cui la donna quando torna a casa vede sempre il marito sul divano che guarda la televisione perché è stanco, perché è tornato dal lavoro, no? E allora la LG, nota marca di televisione, ha pensato di realizzare una sorta di contest. Prima ha creato una pagina su Facebook dal nome Mio marito è incollato alla TV, invitando, diciamo, le mogli e le donne in generale a parlare di questo problema, vale a dire lamentandosi quasi del fatto che gli uomini e i mariti fanno sempre questa pratica divano televisione quando tornano dal lavoro. E non le considerano più, certo. Esatto, e ha proposto un contest, vale a dire 5 ragazze sono state scelte per realizzare una sorta di candy camera, quindi una camera nascosta all'interno della stanza del salone. Le donne, mentre il marito stava tranquillamente guardando la televisione, entravano con una mazza da baseball e distruggevano la televisione di fronte agli occhi. Ma questo in casa loro lo facevano? Questo sono in casa loro, assolutamente. Ok, si sono... Mentre il marito era al lavoro, hanno organizzato tutto quanto. Si sono offerte insomma per prestare la loro TV e la loro casa per queste candy camera. Esattamente. Reazioni dei mariti? Ah sì, sbigottiti, chi impazziva, chi diceva la moglie se fosse appunto impazzita improvvisamente. La sorpresa finale, una volta che la moglie aveva finito di distruggere il televisore, arrivavano due incaricati che invece regalavano al marito un televisione LED da 42 pollici, e poi le stesse coppie sono state invitate in varie trasmissioni per raccontare la loro esperienza e parlare un po' di questo problema, tra virgolette, di come certo, sono tutto donne, mosso comunque, quindi la TV comunque alla fine è ritornata nelle case, ecco, non so cosa sia cambiato, è tornata quella nuova e certo, quella ovviamente si sarebbe ultra contento, sì, perché tanto le abitudini non avrebbe mai cambiate. Volevo ricordare anche, avevi una domanda tu a Mancinelli per Fabio. Sì, no, volevo sapere da Fabio come lui vede ad esempio nel campo del guerriglia marketing anche le guerriglia girls, le suicide girls che fanno, non ma so, di cosa stanno parlando questi spogliarelli sulle metropolitane e così via. Ma sì, sono sicuramente attività molto più estreme, ma così come loro anche, non so, le attività che vengono fatte da PETA o da altre organizzazioni no profit o comunque sia organizzazioni che cercano di attirare l'attenzione attraverso comunque sia attività molto più forti. In questo caso comunque il corpo della donna viene spesso rappresentato in maniera nuda, perché riesce sicuramente ad attirare molto più l'attenzione. Ancora, certo. Ultimamente per esempio c'è stata un'altra attività che ha riguardato invece sia uomini che donne, che è svolta per esempio in alcune sedi Unicredit anche di Bologna, anche lì per protestare contro la crisi. E però nuovamente anche in questa azione qui spesso viene mostrato il nudo, scelto come forma, diciamo, di rappresentazione visiva più utile per comunicare un determinato problema. Ecco, no, non ho capito il termine che hai usato, Mancinelli. Quello si chiamano suicide girls, cioè ragazze suicide, che sono in realtà queste ragazze. È un sito, diciamo, softcore, sono profili di ragazze dark, punk, indie o comunque sia alternative. Che usano lo spogliarello anche come arma politica, per cui il nudo in realtà è agito da loro, per cui si spogliano in metropolitana, fanno questi spettacoli. No, è l'aggettivo che è curioso, suicide. In realtà credo che sia, mi aiuterà Fabio, credo che sia di origine anglosassone. Sì, di origine anglosassone. No, in realtà nasce a Portland all'inizio del noto postaccio dove nascono mode terrificanti. Esatto, nasce a Portland e poi comunque sia dal 2000 in poi inizia anche a spostarsi, una comunità che comunque sia continua a svilupparsi e a crescere. Ecco, allora intanto volevo ricordare che a Roma il 15 e 16 aprile ci sarà il seminario Guerriglia Virale e Social Media Marketing, organizzato da Fabless. Ovviamente avrai molti ospiti, immagino, a questo. Sì, ci saranno molti ospiti. Mauro Luvi, grande esperto di comunicazione online, ci parlerà delle nuove piattaforme social media, social network, di cui ogni tanto parliamo anche a riposo del guerriero. Francesco Vigliotti di Magilla Guerriglia invece approfondirà il discorso sul guerriglia marketing, Gianluca Arnesano parlerà di viral marketing, poi ci saranno due ospiti speciali che il direttore artistico della Fandango ci racconterà meglio l'esperienza della campagna di Qualunque Mente per il lancio di straordinaria campagna, certo. Esattamente, e poi invece proprio per tornare a parlare di discorsi sociali ci sarà l'organizzazione Terra Ollus che ci racconterà come invece è possibile utilizzare queste nuove forme di marketing per raggiungere, diciamo, scopi di tipo sociale. Ecco, mi viene in mente che se avessimo intervistato Cettola Qualunque questa domenica per parlare di donne avrebbe detto più pelo per tutti, esatto, perché questo sarebbe stato il succo. Grazie Fabless, grazie. A voi. Ricordo il sito ovviamente blogguerriglia.it per avere anche le informazioni sul seminario se vi interessa. Volevo leggere un messaggio: condivido molto di quello che dite, ma per una donna sarebbe stato tutto meno banale se si fossero intervistati 60 uomini, anche se poi credo avrebbero detto le stesse cose. Antonio Mancinelli, ma infatti io lo prendo come un augurio, perché per il prossimo libro io vorrei intervistare proprio 60 uomini sulla loro crisi di compiere gli anni, di come affrontano l'età. Fra quanti anni lo scriverai? Forse quando compierò 50 anni. Ah, ok, quindi io sicuramente non li avrò e sarò escluso da questo. Tu li avrai mai, questa è la tragedia. Vediamo di invece a questo punto così. E comunque le suicide girls in Italia hanno una filiale italiana che si chiama Spaghetti Pin-Up, che è già molto più bello. A proposito di spaghetti, Marchesi di Frescobaldi, 700 anni di grandi vini toscani, vi presenta Il Gastronauta. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Ciao, buongiorno, buona domenica. Oggi uomini che parlano di donne, le donne in cucina, cioè nei ristoranti, cominciamo a trovarle finalmente. Beh, sai, da un po' di anni certamente sì, perché in Italia abbiamo tre donne tre stelle, addirittura la prima donna tre stelle l'abbiamo avuta in Italia, che è appunto all'Osteria del Pescatore, e quindi credo alla signora Santini. E quindi credo che sicuramente c'è stata una grande crescita, mentre un tempo le donne nei ristoranti forse non avevano la considerazione che esprimevano negli ultimi anni, c'è stato così, come posso dire, una specie di rivoluzione in Italia, perché c'è stato un momento che noi avevamo tre stelle che erano solamente tre donne, e quindi abbasso gli uomini, nel senso che gli uomini non avevano ancora raggiunto le tre stelle in Italia. Poi vabbè, ora oggi sono sei, ci sono anche gli uomini, ma anche in giro per il mondo ce ne sono poche di donne stellate. Ce n'è una in Francia, un 3 stelle, poi diciamo ci sono altre donne, però non hanno toccato questo livello. Ma io credo che ci sia una ragione storica, cioè la donna è sempre stata considerata la cuoca di famiglia, quindi non una cuoca da ristorazione, e soprattutto perché si dice che la donna, cioè, sia meno resistente. Io ho qualche dubbio su questo, comunque, in cucina, nella ristorazione, perché sicuramente nella ristorazione non è come a casa. Che è molto faticoso, giorno, certo. Sì. Un giorno puoi anche dire: oggi non ho voglia di cucinare, arrangiatevi in ristorante. Non si può. Bisogna farlo mattina e sera, quindi insomma diventa un lavoro pesante. Diverso, sicuramente. Certo che non si può dire se è meglio l'uomo o la donna in cucina, per carità. No, non era questa la domanda, era proprio capire come sta evolvendo una tradizione, perché di solito insomma gli uomini si vedono ai fornelli di un ristorante, no? Oppure, come dicevi tu, stellati molto più spesso sono gli uomini, però adesso vedo che le cose stanno un po' cambiando da qualche anno a questa parte. Ma non lo so, forse perché c'è magari maggior sicurezza delle donne, magari c'è stata, come posso dire, anche una crescita in tutti settori della donna, è inutile nasconderlo. Assolutamente. Dal punto di vista sociale, quindi magari un tempo gli erano preclusi certi ruoli pubblici, e oggi invece sicuramente queste barriere non ci sono più. Difficile dire se la donna in cucina ha più sensibilità dell'uomo, se esprime meglio la tecnica o altro. Ecco, questo secondo me è una valutazione molto personale che può cambiare da individuo a individuo, al di là del genere, sicuramente. Davide, c'è invece, per esempio, un vino che è un tipo di vini che dalle donne è proprio preferito rispetto ad altri? Esiste, secondo te? Anche questo è completamente trasversale. Questo mi permette di dire un'altra cosa, che c'è stata una crescita straordinaria delle donne vignaiolo in Italia, cioè veramente una grandissima crescita, è una grandissima crescita, nel senso oggi ci sono decine e decine di donne che conducono in maniera brillantissima aziende vinicole ad altissimo livello. Io credo che ci sia stata forse maggior crescita nel settore del vino rispetto al settore della cucina. Proprio diciamo oggi all'avanguardia ci sono delle leader in molte aree d'Italia. E tornando alla tua domanda, ti devo dire, ma molti sostengono che sia il rosé, secondo me perché fanno una semplificazione, né rosso né bianco si chiama il rosé. Io non credo, io vedo che ci sono donne che ordinano rossi importanti, come donne che dicono che preferiscono le bollicine. Io non credo che ci sia un vino per le donne in particolare, assolutamente. Io credo che anche il palato femminile sia molto cresciuto da questo punto di vista. Anzi, ricordo una ricerca un po' di anni fa di un'università americana, mi sembra dalla Pennsylvania, che sosteneva che le donne avevano, dal punto di vista della sensibilità, della palatabilità, un maggior potere degli uomini nella degustazione dei vini. Beh, i nasi famosi per i profumi, per esempio, sono donne, faccio un esempio. Sì, sono donne e uomini, insomma, c'è un po' di tutto, perché anche in Italia abbiamo due o tre nasi importanti, sono sia uomini che donne. Dicevano appunto che avevano delle potenzialità maggiori, appunto questo studio diceva, di donne sommelier o di donne degustatrici. Io non vedo molte differenze, sinceramente, tra l'uomo e la donna. Io credo che ci sia qualcuno che è portato in maniera straordinaria, che ha memorizzato, che ha lavorato su questo, e quindi non vedo differenze dal punto di vista del sesso. Io credo che sia in cucina che nei vini c'è una parità assoluta. Come l'arte e la musica, massima trasversalità, giustamente. Sì, io credo proprio di sì. L'arte è così, e quindi la cucina ovviamente e il vino lo sono. Grazie Davide Paolini, buona domenica. Alla prossima. Grazie ancora. Tra poco giocheremo, ma non ho dimenticato assolutamente i vostri segni, dalla bilancia ai pesci. Antonio Capitani, magari, visto che ci giocherà anche con noi, 800 24 00 24, e durante il gioco continueremo a parlare anche con Antonio Mancinelli. Il riposo del guerriero. Intanto volevo dire che poi, non la prossima settimana, ma in più avanti, faremo sicuramente la puntata contraria, cioè parleremo di uomini raccontati dalle donne, questo è chiaro. Ci stiamo preparando perché io ho delle idee, ma non viene ospite, non dico chi è. È una signora, però è molto difficile averla come ospite. Peccato, mi piacerebbe sentire la sua opinione. Ma andiamo oltre, Antonio Capitani. Eccomi. Scusami, ti ho fatto aspettare un po', ho fatto aspettare anche i nostri ascoltatori. Dalla bilancia, Scorpione e Sagittario, ecco il trittico. La donna della bilancia è proprio la sophisticated lady dello zodiaco. È una donna che in fatto di stile, per esempio, non ha rivali. Potrebbe anche indossare la divisa dell'ANAS e affascinare chiunque, insomma. È dotata di discernimento, di lucidità di giudizio, forse più del proprio compagno uomo, di segno intendo dire. Ha un alto senso della giustizia, forse vive i sentimenti con un po' troppa apprensione, spesso il desiderio di completamento di sé nel rapporto di coppia diventa un bisogno smodato di avere qualcuno, un po' come se star da sola per la bilancia significasse sentirsi un po' mutilata. Quindi la donna della bilancia forse dovrebbe, come dire, rafforzare un po' questo senso dell'autonomia che a volte le manca, il l'amore anche un po' per se stessa, perché i due piatti che la compongono, diciamo che a volte sono, pendono forse un po' più a favore, ripeto, della necessità e a volte anche della dipendenza psicologica o di altro tipo nei confronti degli altri, che non verso il senso dell'autosufficienza. Però devo dire che è una donna che, in quanto ha grinta, combattività, insomma, pur sempre un segno governato anche da Saturno, dove si trova in esaltazione questo pianeta così granitico, così forte, è una donna, dicevo, che in quanto ha forza d'animo poi non invidia nessun'altra donna dello zodiaco. Io posso citarti fra queste donne della bilancia Monica Bellucci. Dicevamo appunto che la bilancia è l'icona del fascino per eccellenza. Monica Bellucci, la Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Catherine Zeta-Jones, insomma, ce ne sono tante di donne straordinarie nate sotto questo segno. Aspetta un attimo, prima dello Scorpione, Antonio, facciamo partire il cronometro. Un mistero in 24 minuti. 1000 euro per voi da spendere su librerizzoli.it. Dovete dare una risposta e dovete risolvere il mistero ascoltando gli indizi musicali che vi farò ascoltare. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Partiamo però da 1000 euro. E la prima, il primo indizio lo sto per dare. No, stavo pensando che la risposta può essere o una notizia della settimana oppure un personaggio conosciuto o qualcosa che ci appartiene. Comunque, qualcosa che sicuramente dovreste conoscere. Ecco il primo indizio e poi riprendiamo gli ascoltatori e Capitani. Eccoci qua, la prima è Anna da Ancona. Buongiorno Anna. Buongiorno Stefano. Ciao. Allora, è un piacere poter parlare con lei. Ti ringrazio molto. Il tuo mandato è lei. È piacevole la sua trasmissione, come tutta la radio. Grazie, davvero. E buona giornata. Ha superato i 40? Sì, ne ho 58. Sì. Ah, ecco, vedi. Ho ascoltato tutta la trasmissione, sì. Credo di essermi persa il mio segno. Non so se è quello che poi era finito, che non è molto femminile, il leone. No, Capitani. Oh, assolutamente, buongiorno signora. Buongiorno, no, il leone, caspita. Caspita, il leone è femminilissimo. È proprio... Ah, allora ho sentito male. No. Un po' per la casa. No, diciamo che è molto generosa e a volte la generosità può surclassare la furbizia e quindi la leonessa ci rimette un po' del suo. Vabbè, insomma. Allora, speriamo che la generosità paghi, ma quella ovviamente della radio e di libreria Rizzoli.it. Anche noi, siamo a 1000 euro, Anna. Io voglio osare, Stefano. Un altro indizio? Ah no, osare, osare. Senza un altro indizio. Vai, ho capito, usare. Allora, vai. La morte di Liz Taylor. Grazie, Anna. Ciao, come Stefano, sempre buona si saprà giornata, dopo. Grazie. Buona grazie. Buona domenica. Hai visto, ho cominciato dandomi del lei, ho dato del tu, ci ho provato. E mi sento vecchio quando mi sento da del lei, capito? Quello hai ragione tu. Franca da Asti, buongiorno. Buongiorno Stefano. Franca, che segno sei? Uno scorpione. Ah, ecco. Sono cuoca. E sei cuoca? Senti, ti leggo un messaggio straordinario che dice: cuochi, è arrivato un sms, l'uomo è il migliore a creare piatti che ti fanno sentire speciale e a farli pagare uno sproposito. Le donne sanno invece riempirti la pancia coi sapori che fanno la storia. Penso che sia giusto. Ecco, bene. Allora, prima di chiedere a te, a questo punto, visto che sei dello scorpione, mancava quello, Antonio, lo scorpione donna. Ma lo scorpione donna al primo sguardo affascina, al secondo strega e al terzo rimbambisce completamente, perché ha un fascino magico, irresistibile, quasi circesco, che spesso suscita anche pensieri, insomma, un po' vietati ai minori, ecco. È una stratega, è una delle donne più intelligenti dello zodiaco, sensibilissima. A volte si parla un po' a sproposito di questo segno, perché c'è sempre che lo scorpione viva, lavori e gestisca la propria vita solo ed esclusivamente con i propri organi genitali. Poveretto, non è vero, perché lo scorpione ha un cuore, non è vero che sia solo il segno del sesso. E vorrei anche vedere. No, la scorpionessa, ripeto, è forse una delle più intelligenti dello zodiaco e è una leader per natura, spesso femminista per antonomasia, nel senso che vuole comunque difendere e combattere i propri diritti contro tutto e contro tutti. Certo, la dignità e i diritti prima di ogni cosa. Grazie Antonio, poi torno a te. Franca, cosa vuoi fare? Altro indizio o una risposta? Beh, ascoltando i Beatles magari. Lady Di? Non ho capito. Ah, ecco. Sì? La Lady Diana. Lady Diana. Grazie Franca. Grazie. Prego. Nelle menti ci sarà un matrimonio tra pochissimo, importantissimo. 29 aprile. Ah. Tra William e Kate. Anche lì sarà un argomento. Esatto. Vai a vedere il matrimonio? Forse sì, e forse lo commenterò. Pare che abbiamo fatto già un sacco di gadget. Una domanda per hanno te, fatto anche Mancinelli. Condom, tu chiedevi anche il signore dello zodiaco le 60 donne che hai intervistato o non sì. L'hai fatto? Ah, l'hai fatto? Sì, lo chiedevo, però non c'è scritto sul libro. E perché l'hai chiesto allora? Per mio interesse personale. Ah, non lo sapevo. Massimo da Monza, buona giornata. Buona giornata, ciao sì. Stefano. Ciao Massimo, cosa vogliamo fare? Voglio dare la risposta anch'io. Anche tu, siamo ancora a 1000 euro, vai. L'accordo tra la Apple e i Beatles che è stato raggiunto in settimana. C'è stato, infatti. Grazie Massimo, buona giornata. Buona giornata. Vi ricordo ancora il numero 800240024, siamo ancora a 1000 euro. Emanuele, dalla provincia di Milano. Ciao Stefano. Ciao Emanuele. Secondo me la risposta l'hanno già data, più quella giusta. Però sai che la doppia risposta non si può, quindi inventane un'altra o senti un altro indizio. No, io darei la mia risposta. Sì, vai Emanuele. La mia risposta è l'Inghilterra che è entrata in guerra. Grazie Emanuele, io non posso sbilanciarmi ovviamente, buona giornata. Ciao. Giampiero dalla provincia di Varese. Ciao Stefano. Ciao Giampiero. Allora. Giampiero, mi senti? Sì, benissimo. Sì, ciao. Io volevo un altro indizio. Tu volevi un altro indizio, gli aggiornamenti sul traffico e poi arriva l'altro indizio. Anzi, aspetta un attimo, lanciamo gli aggiornamenti. Antonio. Capitani, Antonio. Sono qua. Eccoci. No, scusatemi, avete ragione. Stesso nome, come la squadra davvero. Ce la facciamo in un minuto la donna Sagittario? Ma come no, è una donna che va sempre al galoppo, come vuole l'emblema del proprio segno, che è per metà cavallo e per metà essere umano. Donna spesso entusiasta, un po' l'Indiana Jones al femminile dello zodiaco, ha tempra spesso sportiva, è cittadina del mondo, è compagnona, devo dire, sempre molto divertente e consigliera affidabile. Anche qui possiamo citare di nuovo la proverbiale ingenuità a volte dei segni di fuoco. La donna del Sagittario, come quella dell'Ariete, come quella del Leone, spesso si fa un po' turlupinare proprio perché è una generosa, è una altruista, un'oblativa, però insomma lei va bene così e non ha mai niente da rimproverarsi, ha sempre la coscienza a posto. Devo dire che è una donna, una compagna di vita, una compagna un po' per tutte le occasioni, devo dire, impareggiabile. Grazie capitani, aggiornamenti sul traffico. Strade in diretta. Buongiorno, rimane invariata la situazione sulla statale 510 Sebina Orientale. In provincia di Brescia il traffico è bloccato nelle due direzioni per un incidente avvenuto a Provaglio d'Iseo. Per lavori è chiusa la 3 Salerno-Reggio Calabria tra Lago Negro e Lauria nei due sensi di marcia. Rallentamenti e code in prossimità delle uscite obbligatorie su entrambe le carreggiate. Ancora per lavori questa notte sarà chiusa la 14 Adriatica nelle due direzioni tra Marotta e Senigallia dalle 22 alle 6 di domani. A Roma infine è domenica ecologica sino alle 20:30 è chiusa l'area interna al raccordo anulare per i veicoli più inquinanti. È tutto, se siete in viaggio raccomandiamo la prudenza alla guida. Un mistero in 24 minuti. 800 24 00 24, siamo ancora a 1000 euro ma stiamo scendendo a 500 perché Giampiero di Varese ha chiesto il secondo indizio. Eccolo qua il secondo indizio, Giampiero, è Michael Jackson, Heal the World, ovvero cura il mondo. Siamo a 500 euro. Ma io direi allora a questo punto che proprio brancolo nel buio. Ieri un'ora si sono spente le luci. Sì, per, ne abbiamo per parlato anche. Meglio. La nostra terra, quindi siccome poi sono anche astrofilo e amante delle stelle, direi proprio questa manifestazione che una volta all'anno organizza appunto. Che meraviglia, per così certo i cieli si vedono molto bene perché non c'è più l'inquinamento luminoso, il WWF che organizza questa ora. Esatto, quindi direi questo. Anche ne abbiamo parlato poi... anche, grazie Giampiero, sei stato chiarissimo, chissà 500 euro potrebbero essere i tuoi, buona domenica. Sì, grazie. Ciao, Franca da Pisa. Franca? No. Eccoci qua, Franca. Sì, sì, sono qui. Intanto complimenti per la trasmissione e per tutta la radio. Grazie. Senti, io brancolo un po' nel buio. Anche tu. Però, sì, sì. Però appunto vorrei dire ora la seconda cosa che mi era venuta in mente, cioè la sospensione dei programmi nucleari o perlomeno il ripensamento sul nucleare. In attesa di una riflessione. Di tutta l'Europa, certo. In particolare dell'Italia. Ti ringrazio, Franca. Va bene, grazie, ciao, a presto. Ciao, Antonio, Capricorno. La donna del Capricorno è apparentemente asburgica, quasi una sorta di signorina Rottermeier. Oh, Madonna. Però in realtà è molto più morbida di quanto non si creda. La donna del Capricorno ha questo cuore avvolto da, credo, una trentina di giri di carta d'alluminio che poi nel momento in cui questa donna incontra la persona giusta, accetta di togliere, di consegnare questo cuore nelle mani dell'innamorato e il quale scopre che poi questo cuore è fatto di panna cotta con un interno di mandorla dolce. Quindi è soprattutto una maschera quella che la Capricorno spesso indossa, però ha una particolarità, devo dire ha un vantaggio che forse è un po' invidiato da tutte le altre donne dello zodiaco, la donna del Capricorno, che se a 18 anni ne dimostra 30, poi a 50 ne dimostra 35, è un po' come se il tempo ingranasse la retromarcia per la donna del Capricorno che man mano che va avanti negli anni si spoglia delle stalattiti di ghiaccio e degli aculei e diventa anche più ironica e più fresca. Samuele da Parma. Ciao, allora buongiorno. Buongiorno Samuele. Allora, guarda, io ti leggo da quando scrivevi per la PlayStation 1 sui giornali. Sei un mito, per me sei un mito, veramente. Ti ringrazio molto. Due anticristo praticamente. Ecco, Mancinelli è soltanto invidioso, Samuele, non preoccuparti. Allora. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Allora, Samuele, cosa vuoi fare? Un altro indizio oppure... allora, non mi corrompi, lo sai, io sono incorruttibile. Quell'altro è nervoso perché sono brancolo veramente. Anche tu. Nel buio. Siamo a 300 euro, eccolo qua. Quando cadi giù, quando la vita è un sasso, con un salto puoi recuperare il passo. Lasciala fluire l'energia del suono. Che non posso, che non posso, che non posso fermare. Eccolo qua il terzo indizio, salta più alto, Raff. Guarda, una cosa folle. Tanto ormai tanto non la so la risposta. Vai Samuele. Allora, vai. La previsione del terremoto c'era a maggio a Roma, che c'era praticamente nella previsione che hanno detto i Beatles nella copertina di Sgt. Pepper. Grazie Samuele, non posso dire niente. Grazie Samuele, ciao, buona domenica. La risposta, sapete, può essere anche arrivata, però lo scopriremo solo al 24esimo minuto. Stefano da Verona. Ciao. Ciao Stefano, cosa vuoi fare? Io volevo provare una risposta. Allora aspetta, sentiamo i tre indizi scoperti fino a questo momento. Penny Lane, Beatles, Heal the War, Michael Jackson, salta più alto, Raff. Io lo che hanno detto la morte di Liz Taylor o hanno detto il personaggio? Sì, hanno detto la morte di Liz Taylor, non il personaggio. Io volevo provare a dire Liz Taylor, visto che era molto amico di Michael Jackson. È vero, grazie, grazie Stefano, grazie. Antonio Capitani, gli ultimi due segni, velocemente. L'acquariessa è sempre avanti rispetto alle altre, è un avanguardista, una sperimentalista, un po' anche una menefreghista, per certi versi, soprattutto nei confronti delle opinioni degli altri. E questo la aiuta a campare fino a 100 anni. Il suo fascino è irresistibilissimo, è intelligentissima. Devo dire che ha un Cicinin di ego riferimento, non quanto il suo compagno uomo di segno, perché 9 acquario uomini su 10 sono effettivamente un po' Feld, un po' dittatoriali. Le acquariesse lo sono in percentuale minore, però ripeto, una donna che sa il fatto proprio, che sa quello che vuole e che non si lascia fregare troppo dalle suggestioni della sensibilità. Pesci, velocissimo. Pesci, bella, sensuale, femminile, è sensibile, è la maga dello zodiaco, la sensitiva dello zodiaco, non appare infatti in quanto a fascino. Devo dire che può essere anche una madre particolarmente attenta, si realizza nella famiglia, si realizza nella tradizione, anche se poi a volte è un po' leader di cotta continua, nel senso che si innamora a raffica, ogni volta pensa di aver trovato il principe azzurro, l'amore della propria vita, quando poi tocca con mano le cose reali, del mondo reale, si accorge che forse il sogno era più bello e ritorna a sognare e inseguire chimere. Grazie davvero Antonio Capitani, è stato bravissimo come sempre. Vi ricordo il libro Contro Saturno, sempre di Sperling, è l'ultimo che hai pubblicato. Ciao, sì. Grazie Antonio. A voi. Ciao, ciao, ciao. Carlo da Pavia. Sì, buongiorno. Ciao Carlo, ce la facciamo? Guarda, nessuno ha dato la risposta giusta fino a questo momento. Purtroppo sono molto confuso, però va bene, sento una risposta così, anche se più che altro era una notizia che ha colpito forse più me che... Vai Carlo. Allora, la dichiarazione che ha fatto il vicepresidente del CNR sulla sciagura giapponese, praticamente dando una spiegazione, sì, che sì, i giapponesi hanno fatto, certo, qualcosa. Certo, è stato Dio un po' che vuole che li ha puniti, non si sa bene neanche, esatto, di che cosa. Esatto. Grazie, e non è questa la risposta, purtroppo... Però quella dichiarazione lì c'è stata veramente. Grazie davvero, è finito il tempo, la risposta la do io. Allora, Penny Lane, Beatles, cioè gli scarafaggi, Heal the World perché bisogna salvare il mondo, salta più alto perché le cavallette saltano. Infatti cavallette, grilli e formiche sono in vendita in nuovi supermercati aperti in Olanda. Questo perché dobbiamo salvare l'ambiente. E quindi hanno pensato, hanno avuto questa bella pensata. Antonio Mancinelli, sì, caporedattore di Marie Claire, finalmente libere, 45 più donne, sono 60, raccontano come si sopravvive ai 45 e più anni, quelli invece rimangono 45, sì, quelli fissiamo lì. Sempre 45. Tu, dopo aver scritto questo libro, ti senti finalmente libero? Da 2 anni di fatica sicuramente sì, e poi anche in altre cose, per esempio mi sono sentito libero di venire da te stamattina. Io ti ringrazio moltissimo, perché sono io che ringrazio te e la tua meravigliosa trasmissione. Mi spiace aver avuto poco tempo, abbiamo voluto dire tante altre cose, ma il libro le dicono ovviamente, grazie Gesù De Luca redazione, il libro in libreria oltre che in edicola. Sì certo, assolutamente, ho detto in edicola prima, sì, scusami. In assistenza Claudia Carusi, Paolo Correoni in regia. Ciao a tutti, a domenica prossima. Perdonami, hai fatto bene.